scrive un ascoltatore: ieri sono andato al cinema e c'era solo Biancaneve e Spider-Man per bambini, ci ho rinunciato, vediamo oggi che propone Vasquez. Ma nel senso che cercava un film per bambini e non l'ha trovato? No, era un film per bambini, ma lui voleva vedere un film per grandi. Vediamo cosa propone Vasquez. Sono pieno di proposte. Film per grandi. Sì, per un pubblico adulto. Adulto. Buonasera Gabriele Vasquez, ben arrivato. Buonasera. La più importante trasmissione di cinema d'Italia. Sì, perché ancora non ho ascoltato tutte quelle d'Europa, ma insomma, finora quelle che ho ascoltato d'Europa, comunque questa è più importante. Il fatto è che tu non porti neanche un attore, un regista. Quella è Robetta. Vabbè, ma... per me, cioè, cosa hai bisogno? Vuoi che ti imito Favino? Faccio un'imitazione di Favino? Non porti nessuno. No, Robetta. Quello è come, sai, è come quando le pubblicità usano i testimonial invece che avere una vera idea. Cioè, quello è per chi non ha idea. Dici che sono marchette quelle lì. Sì, poi, cioè, ti pare che io porto qua, che ne so, dico noi, porto qua Robert De Niro per dire, No. Robert De Niro e poi parlo male del suo film. No, non si può, cioè, comunque ci sono dei doveri di cortesia. Mentre invece noi siamo indipendenti, capito? Siamo scomodi. siamo scomodi. La sedia no, però insomma, sì, siamo scomodi. Caro mio, il piatto piange. Gran film quello lì. Aldo Maccione, a me piace da morire quella. Poi ha lavorato pochissimo in Italia, ha lavorato più che altro in Francia, facendo chiaramente il mafioso italiano sempre, però insomma, un attore incredibile. Dai, facci venire, dai. Bravo Peppino, bravo Peppino! Ullala! Vieni! Aspetta, cavola, che tiro! Partita a biliardo, bellissima! Okay. Col gerarca! A te! A te sprefico. Non lo vedo da lui. Però difficile. Conviene prendere la palla in mano e dare tre punti. Le palle in mano le prende tu. Che spiritaggio. Questo è il gerarca. Anzi, lo sai che cosa ti fa dico? Il tiro. Che questa la tiro di culo. Poi Aldo Maccione era il classico non attore italiano, nel senso che comunque non veniva da nessuna scuola di recitazione, prima faceva altri lavori, è finito nel cinema per caso, ma aveva il volto, c'era poco da fare. Che faceva prima? Purtroppo non mi ricordo che altro lavoro faceva, ma lui faceva tutt'altro proprio, e finì casualmente al cinema e... però quando hai la faccia è la faccia, è come anche Lee Marvin, era un altro... grandissimo, sì, attore. Va bene, ma veniamo a noi, alle cose di casa, alle cose moderne, al cinema. Al giorno d'oggi. Allora, innanzitutto posso dire all'ascoltatore che comunque in sala ci sono almeno due film interessanti, a seconda poi dei gusti che ha lui. Uno è L'amore dura tre anni, si è orientato su cose, commedie francesi, molto carina, molto interessante, ha un montaggio iniziale bellissimo con cui si racconta la storia d'amore di questi due protagonisti, poi chiaramente, come dice il titolo, la storia finisce, c'è questa elaborazione della fine della storia che è molto carino, molto divertente, poi ha quel modo di procedere dei film francesi che da noi è sempre un che di esotico ed è sempre particolare. Questo chiaramente se gli piace questo genere di film. Se invece è un amante del genere opposto, questa settimana era già nei cinema, quindi avrebbe potuto vederlo se la sala l'avesse mandato The Way Back, film di cui abbiamo parlato l'altra volta, di quel gruppo di prigionieri del Gulag che evade e si fa tutta la Russia per arrivare fino in India a piedi, mesi e mesi e mesi e mesi. Ma non a piedi. C'è più al cinema? Sì, sì, no, c'è, lo stavo consigliando all'ascoltatore. È un film molto bello, c'è Colin Farrell, Jim Sturgess, Ed Harris e Saoirse Ronan. Ed è una storia vera, tra l'altro, una storia vera di questi veri prigionieri del Gulag che sono sopravvissuti nella natura. E se avete mai visto un film di Peter Weir, ad esempio Picnic Hanging Rock oppure Master and Commander, sapete che quando poi si tratta di mettere personaggi all'interno di un paesaggio vasto, lui è bravissimo, e questo è il succo di questo film qua. Scusa, stavo bevendo. Infatti, ho notato che mentre io parlo tu bevi. Ho parlato per 3 ore, un po' d'acqua ci vuole, non c'è lo spritz, quindi è finito lo spritz. Faccio con l'acqua con l'acqua frizzantina. Come ti chiami? Kenneth Kitson. E darai tutto te stesso a questo programma? Sì, signore. Non c'è niente che non faresti per questo paese. Hai la forza per fare quello che è necessario. Come sta? È pronto. Ah, questa è guarita bene. Che ne pensa di quello che facciamo, dottore? Jason Bourne era la punta dell'iceberg. Aaron Cross. Non abbiamo mai visto valutazioni così. È Treadstone senza contraddizioni. Non ho mai conosciuto nessuno nel programma. Insomma, quanti siamo? Fai troppe domande. Jason Bourne è a Manhattan. Incontro lunedì. Pam. Ma riparti qui? No, perché ho pensato che a te non ti stavano simpatici. Non c'è l'attore originale. Non c'è Matt Damon. Allora, questo qui cos'è? Parlando di The Bourne Legacy, nuovo film della saga di Jason Bourne, che esce niente poco di meno che il 14 settembre. Hai voglia. Però il tour stampa lo fanno adesso. Quindi lunedì arrivano. Arriva il regista Jeremy Renner, che è il nuovo protagonista, è quello che faceva Occhio di Falco nei Vendicatori, per dire. E Edward Norton, che fa una specie di cattivo, comunque ha un ruolo d'antagonista. Beh, lì buoni non ce ne sono. Esatto, difficile essere buoni. Cosa racconta in due parole il film rispetto alla saga di Jason Bourne, che ricorderete praticamente è la saga di spionaggio degli ultimi 10 anni. Sono 3 film ed è famosa perché il protagonista è un agente segreto che ha perso la memoria. E in questo film non c'è più il protagonista storico, che è Matt Damon, ma si amplia lo spettro della trama e si scopre che ce n'erano altri come lui, e la cospirazione tipica di questi film è appunto allargata ad altri agenti. Uno di questi è Jeremy Renner. Il film è ambientato, inizia quando il terzo, l'ultimo che abbiamo visto, sta finendo, quindi ci sono, come dire, 20 minuti di sovrapposizione di trama, cioè inizia a 10 minuti, anzi a 20 minuti dalla fine del precedente film. Ah, quindi vediamo 20 minuti di film vecchio. Praticamente sì, no, però lo vedi da un altro punto di vista, che succedono altre cose contemporaneamente, che succedeva. E c'è tutto un altro livello di trama. Ah, io pensavo fosse il prequel. No, segue gli eventi e c'è tutta l'eredità di Jason Bourne. Chi sono questi, altri agenti, insomma, c'è tutta un'altra canzone. Poi io sto parlando per la trama che ho letto, perché ancora non l'ho visto il film. Questo è quello che so da... Mi dicono, scusami, che prego, Aldo Maccione era uno dei Brutus. Bravi, esatto, bravi. È vero. Lavorava con i Brutus. Sì. Lavorava con i Brutus. Ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno, perché è morto, esatto, un altro dei Brutus. Esatto. Vabbè, insomma, questo è un film che vedremo a settembre. Era un'anteprima che abbiamo voluto regalare, sì, ai nostri ascoltatori. Così, in esclusiva, tra l'altro. Sì, non ce l'ha nessuno. In esclusiva totale. Senti, ma se esistito qualche anteprima vera del film? Vera? Sì, intera. Al momento no. No, va bene. Perché comunque deve uscire anche nel suo paese d'origine. Ho capito. A proposito di uscite, a proposito di anteprime, a proposito di filmoni, qui si appropinqua l'arrivo del Festival di Venezia, il primo di una nuova gestione. Qui cambia tutto, cambia tutte le carte in tavola. In che allora, senso? Oggi è stata resa pubblica la giuria del prossimo Festival di Venezia. Sarà presieduta, questo si sapeva, da Michael Mann, regista di Heat, La Sfida, di Miami Vice, di Collateral, eccetera, eccetera. E ci saranno una serie di nomi mai sentiti, ma questo non importa, diciamo, di conosciuti. Vabbè, che tu non conosci, no, perché vivi ai margini di certe cose. Mi immedesimo nell'ascoltatore, io li conosco, anche alcuni anche personalmente, è solo che mi immedesimo nell'ascoltatore. Di noti ci sono Letizia Casta, la conosci? cara mia. Esatto. E Matteo Garrone, regista di, chiaramente di Gomorra. I film ancora non sono stati divulgati, però ci sono, insomma, diciamo che gli esperti del settore, i giornalisti, possono fare uno più uno, nel senso che ci sono dei film di registi italiani che sono pronti, sono fatti, ma non escono, eppure sono pronti, perché e tu cominci a farti due conti, beh, è probabile che vada a Venezia, per esempio, Marco Bellocchio, il film su Eloana Engaro, il film sull'eutanasia, sì, che era stato bloccato, Engaro, giusto, non è inglese, che era stato bloccato, ha avuto mille difficoltà, dovrebbe essere quasi sicuramente a Venezia. Ci dovrebbe essere molto molto probabile il nuovo film di Terence Malick, che era il regista di The New World, di La sottile linea rossa, eccetera eccetera. Ci dovrebbe essere il nuovo film di Francesca Comencini. Si mormora che ci sia anche il nuovo di Tornatore, girato con un cast tutto americano, che adesso ti riferisco anche, però devo andare a controllare, sì, per non sbagliare. Intanto film di questa settimana esce solo Free Runner e Biancaneve. E Biancaneve è uscito, vabbè, l'11. Sì, perché è un'uscita infra. Come mai escono solo pochi? Vabbè, siamo in estate. Esatto, è estate. Allora, tra l'altro, su questo una piccola update, un piccolo aggiornamento. Sulla questione estate al cinema italiana non esce praticamente nessun film. Praticamente quello sembra che si siano arresi, nel senso che un po' di anni fa avevano cercato di lanciare l'estate. Sì, ne parlammo, esatto, in altri lidi. Pare che si siano arresi, in realtà no, nel senso che io ho assistito a un incontro a alto livello dei dirigenti, produttori, distributori italiani, sul fatto che quest'estate è andata così, ma non vogliono arrendersi, anzi rilanciano per la prossima, e dovrebbero uscire anche titoli italiani di peso, che finora non era mai capitato che un titolo italiano grosso uscisse d'estate. Però l'anno prossimo dovrebbe essere così. Non ci sarà il cinepanettone, l'estate sta finendo. Sì, ma ci sarà un film equivalente. Vedrete che tutto cambia affinché nulla cambi. Come nei partiti, facciamo un nuovo partito, sì, sempre esatto, gli stessi, cambiamo nome. Allora, mi stavi dicendo? Del nuovo film di Tornatore, che si chiama La migliore offerta, e ci saranno Jeffrey Rush, noto per aver fatto Shine e Il discorso del re, Jim Sturgis, che avete visto probabilmente in Across the Universe, e Donald Sutherland, che non ha bisogno di presentazioni. Dovrebbe essere un bel filmone, ancora non è dato sapere cos'è, cosa ne parla, ci sarà una conferenza stampa in settimana, il 18 luglio c'è una conferenza stampa in cui verranno comunque detto qualcosa, ci sarà qualcosa. Ma è pronto il film? Iniziola. Eh sì, e quindi, quindi andrà a Venezia. È facile pensare che sia Tornatore, c'è un film pronto, bene o male, dovrebbe essere a Venezia. Vabbè, parliamo di sto Freerunner. Non è stato presentato alla stampa. Lo so, sono brutte cose, ma capita. Parliamo di Biancaneve, scusa, scherzi. Sì, parliamo di Biancaneve. No, perché tu così fai così, lo sottovaluti, ma in realtà questo è un film che c'ha tutto un suo perché, Biancaneve? Tu lo sottovaluti, ma in realtà vedi che l'hai sottovalutato. Io lo sapevo che ti conosco, lo sapevo. Allora, non levare credibilità alle mie affermazioni. No, ma figurati, mi permetto. Con i sospiri. Allora, praticamente la storia chiaramente è quella di Biancaneve, è difficile cambiarla, ma il taglio è completamente diverso. Cioè è stato reso un fantasy, e la cosa già è interessante, perché le favole per costituzione, insomma, di loro, hanno una struttura sempre uguale, che è la struttura favolistica. Il fantasy ne ha una tutta sua, che in effetti, vedendo Biancaneve, ci si accorge che gli somiglia. Cioè, iniettando in una storia tradizionale, che già conosciamo, degli elementi come la sete di potere, la conquista, l'alternanza nel regno, insomma, una serie di cose, più alcuni stereotipi, come le figure dei nani, che c'erano anche nell'altro, ma qui diventano nani da fantasy, nani minatori pesanti, grevi, il film cambia immediatamente tono. La trama è un po' allungata, chiaramente viene aggiunto un prima e anche un po' un dopo, insomma, e il film è interessantissimo, cambia completamente, cioè ha veramente poco in comune con Biancaneve, benché la storia sia quella, ed è molto interessante questa cosa. La scorsa settimana mi parlavi del finale con i sette nani. Esatto, i sette nani sono straordinari, perché sono sette attori inglesi noti, uno di loro per dire Bob Hoskins, l'altro Gabriel Byrne, e molti magari non li riconoscete dal nome, ma vedendoli li avete già visti, che in computer grafica sono resi nani, la testa è la loro ma il corpo no, sostanzialmente. E questo fatto di avere sette interpreti veramente veramente forti a fare un ruolo che è il classico ruolo spalla, che però è importante, che ti fa un film, fa la differenza. In più, come in tutte le favole o le storie favolistiche si rispetti, il vero protagonista non è il protagonista, ma il cattivo. Qui la strega la fa una grandissima Charlize Theron, molto brava, e dà vita a un personaggio molto complesso su cui il film inventa molto rispetto alla favola tradizionale. Caro Frodo, una volta mi hai chiesto se ti avessi raccontato tutto riguardo alle mie avventure. A proposito di fantasy, anche se posso affermare onestamente di averti detto, non sono mica arrivato oggi, ti ho tralasciato qualcosina. Bilbo Baggins, cerco qualcuno con cui condividere un'avventura. Non posso prendere e andarmene su due piedi. Sono un Baggins? Aspetta, di casa Baggins. Bilbo, permettimi di presentarti. Fili, Kili, Oin, Gloin, Duali, Bali, Bifur, Bofur, Bofur, Dori, Nori, Ori e il capo della nostra compagnia, Thorin, scudo di quercia. Lontano su nebbiosi monti gelati, in antri oscuri e desolati, ruggenti pini sulle vette, diventi il pianto nella notte, il fuoco ardeva, fiamme sargeva, alberi accesi, torce di luce. Non posso garantire la sua incolumità. È chiaro. Ne sarò responsabile del suo destino. A questi panorami che sono straordinari. Le panoramiche dell'elicottero, fenomenale. Stiamo parlando di un film che uscirà a dicembre 2012. Il sarà 14 dicembre, c'è già la data precisa, potete appuntarvela sul calendario. Sarà il film dell'anno. Esatto, e sarà solo la prima parte. Il film di Natale. Com'è la prima parte? È in due parti. Nonostante poi il libro sia molto sottile, il film è in due parti. Allungano la solfa. Allungano il brodo. E hanno richiamato la vecchia squadra, cioè gli attori. Stiamo parlando innanzitutto dell'Hobbit, chiaramente. Il prequel del Signore degli Anelli, se vogliamo. Un libro che si svolgeva prima e un film che chiaramente si svolge prima. Hanno richiamato la vecchia squadra, nel senso che c'è gran parte del team originale, degli attori originali che hanno fatto il film del Signore degli Anelli con Peter Jackson. Chiaramente fanno alcuni dei piccoli ruoli, alcuni dei grandi. Ci sarà il Ian Holm che faceva Bilbo Baggins nella trilogia degli Anelli, che qui fa solamente il vecchio Bilbo, per cui il protagonista è il giovane Bilbo Baggins. Ci sarà Ian McKellen che fa Gandalf, e ci sarà in tutto il film. Che grande attore che è questo! Un attore straordinario. Ci sarà che poi molti di questi, come per esempio Kate Blanchett, all'epoca quando fece il Signore degli Anelli non era molto nota, era un'attrice insomma che cominciava a fare le cose al cinema. Invece ora è una attrice straordinaria e comunque ritorna nel ruolo di Galadriel. Ci sarà Elijah Wood che fa Frodo, insomma. Ci sarà Orlando Bloom che fa Legolas, c'è cioè gran parte della vecchia squadra, più Andy Serkis che è quello che fa il motion capture del Gollum, chiaramente, e soprattutto, come è noto ormai da tempo, lo fa Peter Jackson, e non doveva essere lui, cioè il regista della trilogia del Signore degli Anelli originale. Beh, in realtà, originariamente solamente lui. Ma non doveva essere lui, lui doveva solamente produrlo. Io non so se non gli andasse, se pensava di fare altro, non lo so, ma lui originariamente doveva produrlo e basta. Vabbè, sta facendo solo sti film qui Peter Jackson. Non so, ha avuto delle, poi ci sono state delle difficoltà, una cosa l'altra, e ha detto adesso basta, questo lo faccio io. E via, con sommo gaudio di tutti. Bene, ma andiamo a parlare dei film di questa settimana. Certo, ci sono ancora delle cose che non ho detto su Biancaneve, ad esempio. No, questa settimana escono solamente due film, è una settimana mogia. Però, attenzione, io ho visto un film che tu attendi molto, che esce settimana prossima. E visto che può essere che settimana prossima io non ci sia, e che quindi questa sia l'ultima puntata di Celluloide e Celluloide, perché potrei essere inviato specialissimo in un festival determinante del nostro paese. Ma mandiamo un trailer. E ho sentito come fosse il rumore del tuono. Ho guardato ed ecco la morte che diceva: vieni e vedi. La storia predilige le leggende agli uomini. Predilige la nobiltà alla brutalità. È un film sobrio, te lo dico subito. Discorsi molto elevati, immagino, a imprese austero, modeste. La storia ricorda la battaglia, dimenticando il sangue versato. Ad ogni modo la storia si ricorderà di me. Prima che diventassi presidente, ricorderà solamente parte della verità. E l'inferno mi seguì. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana. Ma non l'avevo visto. La settimana io l'ho visto. Ah, l'hai visto? Esatto. Com'è? Com'è? Allora, io te lo dico subito, a me non è piaciuto. Però, siccome sono un critico dalle larghe vedute, dalle larghe tese. Attesa larga. Questo sono... è il paese danese. Allora, siccome sono un critico attesa larga, so che c'è tutto un pubblico a cui piacerà. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando del quello che in italiano è titolato La leggenda del cacciatore di vampiri, ma che in realtà in inglese si intitola Abraham Lincoln Vampire Hunter, cioè Abramo Lincoln cacciatore di vampiri. E racconta proprio questo, cioè è la fantastoria del più noto presidente degli Stati Uniti d'America, che in realtà ci raccontano prima di essere presidente e a un certo punto anche durante la presidenza dà la caccia ai vampiri. Ma perché? Cioè, perché? Da dove parte questa cosa? C'è tutta una cosa di una, di, sì, una no, immagino. Di una implausibile plausibilità che ti fa morire dal ridere. Perché hanno dovuto riagganciare una scusa proprio. Sì, però l'hanno voluta agganciare poi alla storia di Abramo Lincoln. E questo è geniale, di una goffaggine esilarante. Allora, praticamente devi sapere una cosa che probabilmente non sai: che Abramo Lincoln da piccolo aveva dei genitori molto poveri. E a un certo punto mentre lavoravano al porto, il suo migliore amico, che era nero di colore, viene picchiato da un signorotto locale. Lui, che già aveva in simpatia i neri, esatto, lo difende. I genitori difendono lui e questo signorotto locale praticamente fa fuori la madre. E lui scopre che questo era un vampiro. E da quel momento dice: No. Giuro, è così. E tu, è una cosa che non sapevamo, che fortunatamente questo film rende noto. E lui dà la caccia ai vampiri. Chiaramente trova un mentore. Un mentore che è veramente questo mentore è un finto Robert Downey Jr. che fa Sherlock Holmes. Quel dandismo ottocentesco, capito? È fintissimo. Gli insegna l'arte, ma gliela insegna in un montaggio di 3 secondi. Cioè proprio in tre giorni. Questa cosa si fa in 3 giorni. E esatto. Diventa bravissimo. Bravissimo. Tra l'altro gli dice anche: scegliti un'arma tua che sia tua, no? Vuoi un fucile? No, no. Una pistola? No. Un'accetta. Ecco. Esatto. Perché sono Abramo Lincoln. In tutto questo lui studia legge. Di notte vampiri, di giorno legge. Per poi diventare presidente. E poi ce ne sarà anche una coda durante la presidenza, durante la guerra di secessione. Proprio tu non lo sapevi, ma la guerra di secessione è stata vinta perché hanno battuto i vampiri. Tu non sapevi tutto questo con voli, sati. No, allora, la parte che ho apprezzato di più, devo dire, è l'iperbolico, cioè quando sgravano, quando esagerano. Cioè Abramo Lincoln che dà i calci volanti, cioè a questo punto, come i film di Bruce Lee, capito? Solo con più rallenti e più accelerazioni, vedo così. Lancia l'accetta e poi la riprende dalla parte del manico. Insomma, tutta una serie di cose talmente esagerate, talmente fumettose, che a quel punto mi diverto. È bello. Meno, sai cos'è? E che mi aspettavo, anzi speravo, che questa cosa talmente fantastorica fosse fatta anche un pochino, ma pochino, a screzio. Cioè, a screzio, un po', che insomma, vuol dire a screzio? A dissacrare queste parole così romanesche, questo romanesco anche un po' giovane. Perché ho fatto una riunione di redazione qua e mi hanno detto: dobbiamo prendere il pubblico più giovane. Lo facciamo così. Comunque fosse un po' anche dissacrante rispetto al mito americano di Lincoln, sempre molto celebrato. Invece no, cioè raccontano questa storia finta di Abramo Lincoln che dà la caccia ai vampiri per celebrarlo ancora di più, con ancora più retorica americaneggiante su un grande presidente, un uomo, la lotta per i diritti civili, la libertà. Insomma, questo mi ha deluso molto, perché sembrava... E devo dire un'ultima, questa blocca un attimo, c'ho un'ultima considerazione importantissima, questa è molto importante, geopolitica, una considerazione geopolitica. Quindi il film è diretto da Timur Bekmambetov, che è questo regista che viene dalla Russia, ha fatto già Wanted in America. E io devo ammettere che mentre vedevo il film non potevo fare a meno di pensare che se tipo 30 anni fa un regista russo avesse fatto un film che sparava così tante fregnacce su Lincoln, gli americani avrebbero sganciato la bomba, direttamente. Invece, segno dei tempi che viviamo, addirittura la girata in America. Sì, girata in America. E hanno pagato un russo per fare questa cosa. La guerra fredda non c'è più, caro mio. Non c'è più manco la guerra fredda. Fammi capire bene, per un intero weekend starai con le mie figlie? Sì, se posso portare questo. Adoro le tue bambine, ma mi terrorizzano. Ehi, Duke, hai visto? La vigilanza è in anticipo. morti. Solo un uomo può autorizzare un attacco simile. E ho votato per lui. Colleghi leader mondiali, la nostra nazione è in guerra. Questo è un avanzato sistema di armamenti che può annientare i vostri paesi per 14 volte. Per farlo basta spingere un solo pulsante. Boom. È la più grande ridistribuzione del potere che l'umanità abbia mai visto. E se il presidente non fosse il vero presidente? Lei è pazzo. Per il nostro governo e le nostre famiglie, ogni traccia della nostra esistenza è stata eliminata. Dobbiamo pensare di non poterci... Questo è un filmone, eh? Ah, quando entra in campo il presidente, io vorrei fare una puntata tematica solo film con il presidente, in cui c'è il presidente degli Stati Uniti d'America. Ma c'è anche lui? C'è anche lui, c'è anche Mr. Bruce Willis. Si stai esaltando, eh? Quando esce sto film? Questo quando è? Bello, te lo dico. Bello. Però comunque questo c'è da aspettare almeno una mesata. Almeno. Siamo rimasti solo noi, muoviamoci. Il mondo non si salva da solo. Chiunque sia stato, tornerà. Se ci fossero dei sopravvissuti, faranno un passo falso. E quando succederà, io li annienterò. Benvenuti all'inferno. Dove siete? No, vabbè, una vita, me ne aspettavo prima. Marzo. Una vita. Ma ho mandato sta cosa, tutti pronti, andiamo. E poi niente. Va, perdiamo solo tempo qui. Sono le 20:42, hai altro da aggiungere, Basquez? Perché ho avuto una grande idea, E sai chi me l'ha data questa idea? No. L'ascoltatore che ha detto, ma insomma che mi vado a vedere. Visto che la stagione è Moja, cioè esce morta. C'è però, invece, c'è una grandissima alternativa, che è Le Notti di Cinema a Piazza Vittorio, ovvero il cinema all'aperto a Piazza Vittorio, che con due sale rifà tutti i film della passata stagione e chiaramente in mezzo c'è tutto quello che vi siete persi e che non è niente male. Quindi... io mi sono studiato il programma. C'è un sacco di roba. Questa settimana, facciamo semplicemente questa settimana che viene. Sì. Così, ciao, se no fa mille consigli. Subito, io vi consiglio domani il film dell'anno. Cioè quello che con tutta probabilità, la scorsa stagione è stato il film della passata stagione. Ha vinto tutto quello che si poteva vincere. È passato a Cannes, ha vinto l'Oscar, ha vinto tutto quello che può vincere. Ed è un film bellissimo. Si chiama Una separazione. È un film, chiaramente, stiamo parlando di un film di un certo livello. Però è bellissimo, no? Veramente non è soporifero, anzi, vi racconto in due parole la trama. Racconta di questa persona che assume una badante per badare al padre. Questa badante fa un mezzo casino, senza che vi dica cosa, fa un mezzo casino. Lui dice, vabbè, basta, non lavori più per me. Non è che la denuncia, niente. Allora dice, no, non lavori più per me. Lei si risente e comincia una battaglia che sarà in parte legale, in parte no, tra questi due, su chi ha ragione. La cosa bellissima è che tu, spettatore, la scena incriminata, il momento, cioè, l'hai visto. Cioè, è filmata, hai visto tutto quanto. Lo stesso, durante tutto il film, non riesce a capire chi ha ragione. A un certo punto della ragione a uno, a un certo punto della ragione all'altro. E questo scontro è tra, da una parte, una persona acculturata, quindi anche, insomma, di un certo livello, dall'altra una persona popolare. Però ognuno ha le sue armi, ognuno ha le sue ragioni. Da una parte c'è uno che è religioso, sì, ma senza esagerare. Dall'altro, quello più popolare, invece, è religioso bigotto. Uno è una donna, uno è un uomo. Insomma, queste due persone agli antipodi si fanno una guerra incredibile, verbale e anche, come dicevo, legale. Ed è pazzesco come questo film riesca a farti rimanere, a farti andare un bilico tra le due cose. A un certo punto pensi che sia la ragione, e non vedevo chiaramente come finisce, perché a un certo punto pensi, va bene, ok, mo voglio vedere come finisce, però è grandissimo. Un film veramente. Ci sarà il colpo di scena? Sì. A me, quantomeno, sai, ogni volta quando esci dal cinema c'è sempre quello sgamato che dice, ma io l'avevo capito all'inizio, ma se vede. Ma lascia stare. A me ha stupito una marea. Una marea. È un termine tecnico critico. Devo dire, un botto. Il Meneghetti, devo dire. Una svaria, devo dire. Comunque, rapidamente gli altri titoli. No, una separazione è domani, sabato 14 alle 21:15 a Piazza Vittorio, cinema all'aperto. Cioè, una cosa bellissima. Cioè, roba che mi sa che ci vado pure io a rivederlo. Bellissimo. Però potresti incontrarmi. Allora, altra cosa molto potresti bellina. Potresti incontrare chi sono io. già è vero, a me è lo stesso giorno. No, non è lo stesso giorno. Dai, che ci si fanno brutti incontri, no? Vabbè. Dicevo. Un altro film molto bello che potrete vedere in questa settimana a Piazza Vittorio è lunedì alle 21.15 c'è Midnight in Paris, quello che negli ultimi 20 anni è il film più di successo di Woody Allen. Io devo dire personalmente non è tra i miei preferiti, però è piaciuto a tutti, è piaciuto veramente veramente molto. Ve lo dico in due parole: racconta la storia di questo tipico personaggio alleniano, non è interpretato da lui, è interpretato da Owen Wilson, che va a Parigi con la moglie e a un certo punto, come spesso accade nei film di Allen, senza una motivazione precisa, lui una sera passeggiando a Parigi si ritrova negli anni 20, così, senza una ragione precisa, e incontra tutta quella che era la vita culturale di Parigi degli anni 20. Ci sta Hemingway, ci sta Noel, Scott Fitzgerald, insomma, è arrivato. C'è Cosimo, c'è uno dei più grandi compositori di jazz, Cole Porter, trova tutta questa gente qua. Ed è un film bellissimo sull'amore per le cose di una volta, sai quando si dice una volta era tutto meglio, ed è un film bellissimo su questa cosa, perché alla fine poi non ci crede neanche troppo, insomma è un film veramente molto bellino. Finite di parlare di Biancaneve per piacere? Abbiamo finito da mo. Comunque io uno dei pezzi migliori di Zaz, Giada. Ciao Vasquez, hai visto La guerra è dichiarata? Scrive Ugo. Allora, La guerra è dichiarata, bellissima domanda. La guerra è dichiarata è un tipico film. Se non ci fosse Ugo, lui. È un tipico film di quelli che proprio a me non piacciono. Questo film proprio non mi piace per nulla. In realtà mi è piaciuto. Quindi, secondo me, è veramente un film che può piacere a tutti. Racconta una cosa che solitamente io non le tollero, queste cose. Una coppia si conosce, si mette insieme, ha un figlio. Questo figlio ha una malattia quelle agghiaccianti. Brutta. Sì, questo starà una vita in ospedale. Ed è la cronaca di loro che vivono questa malattia. Ripeto, solitamente a me questi film non mi piacciono, perché mi dà fastidio quando sei forzato a partecipare a un lutto, perché poi non c'è la morte, però insomma a un dramma che magari neanche vuoi, insomma non mi piace. Però questo film è veramente fatto bene, e c'è i primi almeno 15 minuti di quando loro si conoscono a una festa e i primi tempi in cui stanno insieme, che sono veramente bellissimi, di un romanticismo che a me mi ha colpito tantissimo, quindi ve lo consiglio. Ciao, volevo chiedere a Gabriele se ha mai visto di persona la bellissima Aishwarya Rai, un parere tecnico e estetico. Allora, l'ho vista da persona, però da lontano, cioè non ero vicino. E devo dire, comunque, da lontano non mi è sembrata tanto bella quanto sullo schermo. Cioè, perché si dividono in due categorie. Io, nella mia vasta e lunga esperienza di stars viste dal vivo, Ho visto dal vivo vicino Salma. Che troia. L'ultima puntata. No, si dividono comunque in quelle che sì, sono altrettanto belle, se non di più. Cate Blanchett è molto più bella dal vivo, che insomma, è devastante. E quelle che invece tu capisci, no, mazza, questa deve essere veramente fotogenica, perché dal vivo non rende. Poi mi ha stupito una marea. Hai detto una marea? È il linguaggio critico. Cioè, adesso se non conoscete i termini tecnici del mestiere. Va bene, grazie Vasco, devi aggiungere altro? Ma io potrei consigliare film così, potrei dirti che giovedì 19 fanno Young Adult con Charlize Theron, è un film divertentissimo, sempre a Piazza Vittorio. G.I. Joe tutta la vita. A marzo. Grazie a tutte e a tutti, anzi no, grazie Vasquez, io ho ancora della musica da mettere. Ancora. Ah, prego, ti autorizzo, minuti. Puoi, se posso, vuoi puoi. Vado. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Se non vengo chiamato a Gifoni, sai perché? Perché c'ho il motivo dell'indecisione è che c'è un grosso nome con il quale io dovrei avere un'intervista esclusiva che ti farà guadagnare danari, che devo capire, molti danari, che devo capire se mi danno o meno. Qui ci stiamo traccheggiando, non... Vabbè, intanto ci salutiamo adesso, qualora dovesse accadere ci sarà un risaluto due volte. Grazie e ci sentiamo a settembre. La prossima annata, dopo come sempre, ci sarà come ogni anno una piccola anteprima durante il Festival di Venezia e poi si parte. Quando c'è Venezia? 29 agosto, 8 settembre. Vabbè, noi ti chiamiamo. Certo, una preapertura della trasmissione. Bene, grazie e buoni festival, soltanto che te ne farai più di uno. Per lavoro, perché per lavoro, sai. Certo. Grazie Vasquez, buon cinema.